Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo entrati in una nuova fase politica con nuove generazioni, nuovi personaggi, speriamo anche nuove idee che animano appunto il dibattito. E allora vi segnalo un libro che può dare un contributo importante in questa direzione, un libro di due giovani economisti siciliani. Il primo è Sebastiano Bavetta, che insegna tra Palermo e l'Università della Pennsylvania, e il secondo è Pietro Navarra, che è il rettore dell'Università di Messina, il più giovane rettore d'Italia e che insegna anche egli alla Pennsylvania University. Il loro libro si intitola Il vantaggio delle libertà, come costruire la società aperta in Italia, pubblicato da Rubbettino, 180 pagine, 12 euro. Il sottotitolo che ho appena ricordato, con l'espresso richiamo al filosofo Popper, non lascia dubbi sull'impostazione liberale e liberista di questo libro, che vuole rispondere a quello che gli autori chiamano un diffuso malessere che domina l'Italia, non solo l'economia, un malessere anzi che ha anche dei connotati morali. Infatti gli autori osservano come la difficile fase storica che il nostro paese sta attraversando abbia una dimensione morale che non può essere sottaciuta. Ci riferiamo al sentimento di giustizia percepito dalla gente e alle sue ricadute sulla legittimazione politica delle istituzioni esistenti oggi in Italia. Per rimediare a questo malessere c'è una battaglia da compiere, una battaglia della quale i due autori indicano i titoli: l'istruzione, la fiducia in se stessi e negli altri, con l'abbandono dell'ossessione della ricerca dei santi in paradiso, la battaglia contro il capitalismo delle consorterie. E allora su questo sentiamo uno degli autori che ci spiegherà le conclusioni alle quali sono giunti. Buonasera a Sebastiano Bavetta. Buonasera. Sebastiano Bavetta, il libro che lei ha scritto con Pietro Navarra parte da una informazione, il fatto che cioè voi avete misurato la libertà. Ecco, come si misura la libertà e a che risultato porta questo studio per il nostro paese, per l'Italia? Ci sono diverse maniere di misurare la libertà. Le più interessanti prendono in considerazione la possibilità che le persone hanno di fare scelte, per esempio nell'ambito politico, nell'ambito economico, perché la scelta ormai è una caratteristica qualificante di un sistema capitalista avanzato, potremmo dire. Quindi l'idea di misurare scelte è in qualche modo anche un'idea di misurare quanta libertà abbia una persona di poter accedere alle varie alternative e di vivere in un contesto in cui le istituzioni gli consentano di fare scelte. E in questo senso l'Italia non figura tanto bene, negli indicatori di scelta cercano di misurare quanto le istituzioni siano invasive nella vita delle persone, e non figura nemmeno tanto bene nella scelta che particolare che misuriamo noi, cioè la percezione che gli individui hanno di essere in qualche modo i padroni della propria vita, i padroni di se stessi. L'Italia sembra essere un paese dove la gente non si sente libera di scegliere. Uno degli aspetti sui quali insistete nel vostro libro è il rapporto tra crisi politica e delegittimazione istituzionale. Che cosa emerge dalla vostra analisi? Ma emerge sostanzialmente che dove le persone non si sentono libere di scegliere, perché avvertono attorno a sé un contesto politico che crea una serie di favoritismi, che impedisce appunto di percepirsi liberi di interpretare la propria vita nella maniera migliore possibile o più incline alle proprie desideri, alle proprie preferenze, in quei sistemi le persone ritengono che la maggioranza dei risultati economici sono legati a rapporti di clientela e quindi ritengono che ci sia una grande ingiustizia sociale, e questa è una mina a nostro giudizio estremamente grave inserita in un contesto sociale, perché in qualche modo ne condiziona l'intera struttura, altera la fabbrica, il tessuto, diciamo così, della società, rendendolo incapace di sostenere uno sforzo comune, perché questo sforzo è fondamentalmente alterato da un'idea prevalente di ingiustizia. E questo introduce un elemento che ho già ricordato presentando il vostro libro, e cioè il fatto che, a vostro parere, la crisi che stiamo vivendo ha anche un fondamento, un robusto fondamento morale. Da che punto di vista? Esattamente da questo punto di vista. È facile sostenere che la crisi italiana sia una crisi morale, perché i giornali e la cronaca quotidiana ci sottopongono continuamente informazioni relative a situazioni di non trasparenza, quando non addirittura di ruberie all'interno della pubblica amministrazione. Questo è certamente un aspetto morale rilevante, ma non è quello che interessa a noi quello che interessa è che l'aspetto morale riguarda la capacità che ha una società di impegnare ciascun individuo ad essere parte di una costruzione comune. Ecco, in Italia questo è poco sentito, la gente non crede che si possa far parte di uno sforzo comune, non crede che ci si possa impegnare in uno sforzo comune, perché ritiene che il vicino di casa sia, se ha avuto successo economico, sia sostanzialmente un privilegiato, non sia una persona che ha sudato e se lo sia meritato questo sforzo. E questo è un elemento morale, perché è un elemento di giustizia sociale in qualche modo, cioè la crisi del legame tra merito e risultati sostanzialmente è una crisi profondamente morale a nostro giudizio. Ecco, per raggiungere l'obiettivo dell'allargamento dell'autonomia, voi preferite enfatizzare l'aspetto legato al ruolo centrale della persona piuttosto che alla non interferenza dello Stato. In che cosa differiscono questi due aspetti? A nostro giudizio l'origine di questa crisi morale italiana sta nell'eccessiva ingerenza dello Stato nell'economia. Lo Stato è troppo presente, ha raggiunto livelli di impegno nell'economia troppo grandi. Non è vero che l'Italia e l'attuale situazione sia la conseguenza di un eccessivo liberismo, è esattamente il contrario. Noi viviamo un'epoca in cui il liberismo è in ritirata e lo Stato è invece in avanzata e sta ormai dominando e entrando in tutte le scelte degli individui, riducendo la loro possibilità di scegliere. Ora, il problema qual è? Che non si capisce bene come tornare indietro, perché alla fine, siccome siamo una sorta di circolo vizioso, una sorta di H22 per usare il famoso titolo del romanzo americano, si tratta di questo: noi abbiamo una situazione in cui le persone avvertono questa crisi morale, ma non sono disponibili a superarla, e quindi a modificare le istituzioni per superarla, perché questa crisi morale è sostanzialmente legata alla loro percezione di ingiustizia. L'unica maniera che noi riteniamo possibile per superare questa crisi morale e quindi per rimettere in moto il percorso del paese lungo direzioni che portino ad una riduzione dell'impegno dello Stato, di una società più aperta, è quella di introdurre nuove dimensioni di autonomia individuale, nuove possibilità di scelta per le persone, perché attraverso l'esercizio di questa possibilità di scelta e di questa autonomia le persone possono in qualche modo recuperare un senso del rapporto tra merito e risultati e quindi cominciare a cambiare la loro visione del ruolo dello Stato. Per cambiare questa visione diffusa, come tranquillizzerebbe coloro che magari non credono nel liberismo perché ritengono che questo non garantirebbe la giustizia sociale? Ma guardi, anzitutto io non direi che questa idea che disegniamo nel libro non garantisca la giustizia sociale, garantisce un'idea di giustizia sociale, la nostra è una proposta morale e di giustizia sociale, nel senso che è una giustizia legata al merito, quindi c'è anzitutto un primo elemento legato al merito. In secondo luogo c'è un elemento legato alla capacità di produzione di ricchezza. A me ha sempre colpito nei giorni successivi al terremoto in Emilia le numerose interviste che sono passate sui vari TG, nelle quali questi imprenditori emiliani che avevano subito danni da questo terremoto chiedevano allo Stato di non intervenire, di lasciare a loro la possibilità di esercitare le proprie scelte economiche in questo caso e ricostruire il percorso che avevano fino a questo punto creato nella loro vita. Quindi questo elemento di ritirata, chiamiamolo così, dello Stato, questa non ingerenza dello Stato, non è un elemento a danno della giustizia, è un elemento a favore della giustizia, perché determina un miglioramento della relazione tra merito e risultati di ciascuno di noi e allo stesso tempo favorisce l'incremento della torta, perché l'impossibilità di accrescere la torta è un elemento decisivo per l'ingiustizia sociale. Visto che lei ha parlato di Emilia, veniamo alla sua regione, alla Sicilia, al Mezzogiorno. Voi vi soffermate su questo rapporto tra libertà e sviluppo. Questa vostra ricetta come può favorire il Mezzogiorno? Il Mezzogiorno anzitutto può essere favorito dall'idea della libertà, perché oggi è letteralmente schiacciato da una presenza dello Stato assolutamente insopportabile. che non si riesce a ridurre. Quindi da una impossibilità di creare attività di impresa nel Mezzogiorno, dalla impossibilità di sviluppare iniziative economiche che possano portare prosperità materiale ed immateriale. Quindi la prima idea è quella di ridurre il peso dello Stato, introdurre delle modifiche nella struttura istituzionale e nelle convinzioni delle persone che lo Stato debba essere meno importante, che quello che davvero conti sia l'impegno personale nel successo. Una volta fatto questo, è chiaro che occorre limitare il ruolo dello Stato a favorire le situazioni di disagio sociale, perché noi non siamo per un liberalismo o per un libertarismo spinto, noi siamo per un ruolo centrale della persona nella costruzione della prosperità, in cui lo Stato serve a creare le opportunità e ad eguagliare le opportunità tra le persone, non i risultati come fa oggi. Grazie a Sebastiano Bavetta. Grazie a Sebastiano Bavetta, autore con Pietro Navarra del Vantaggio delle Libertà. Buona serata. Grazie a voi e buona serata. E uno dei grandi classici nel solco della letteratura liberal-liberista è Liberi di scegliere, uno dei libri che ha esercitato una maggiore influenza nel Novecento. Gli autori sono Milton e Rose Friedman, erano marito e moglie, lui premio Nobel per l'economia, e ripubblicato dai BL Libri, 410 pagine, 23 euro, ed è tradotto da Giuseppe Barile. Interessante a questo libro anche la prefazione di Francesco Giavazzi, un studioso liberale, certamente non sospettabile di simpatie politiche destrorse, il quale spiega come il mercato faccia paura, anche se l'apertura degli scambi ha giovato fortemente ai paesi che hanno adottato queste politiche, che hanno fatto passi da giganti. E allora chi crede al mercato, scrive Giavazzi, deve porsi un compito più modesto: spiegare ai cittadini che l'alternativa al mercato, al merito e alla concorrenza è una società in cui i privilegi si tramandano di generazione in generazione. Ecco che ritorna l'elemento morale di cui abbiamo poco fa parlato con Bavetta. E quindi questo è anche un'occasione, lo dice anche Giavazzi, per la sinistra. E quindi sarà utile rileggere questo classico e ricostituire il consenso su queste politiche. Un classico che nella prefazione all'edizione italiana del 1994 si apriva con l'introduzione, qua riprodotta, di un altro grande economista liberale, Sergio Ricossa. E il libro naturalmente illustra l'efficacia del mercato, i guasti dello statalismo, le illusioni dello Stato del benessere quando questo diventa un monopolista dei servizi, e presenta diverse ricette per rendere più liberi molti mercati e servizi, dal mercato del lavoro alla scuola. Qui per esempio Friedman riprende la sua nota proposta del buono scuola per ridare efficienza alla scuola e quindi rendere il servizio pubblico dell'istruzione più efficiente per tutti. Dicevo che il libro di Friedman fu un libro molto influente. Uno dei risultati maggiori ai quali portò la svolta propugnata da Friedman fu l'avvento di Reagan e della Thatcher. E allora vi ricordo proprio un libro uscito in questo periodo su questi due personaggi, Reagan e Thatcher, il cui credo è sintetizzato nelle pillole preparate da Stefania Tamburello nel libro L'economia è il mezzo per cambiare l'anima, Margaret Thatcher e Ronald Reagan in parole loro, è pubblicato da Etas Rizzoli, 172 pagine, 16 euro. E invece della Thatcher, ancora IBL, pubblica This Lady is Not for Turning, I grandi discorsi di Margaret Thatcher, curato da Stefano Magni, 120 pagine, 10 euro. Qui domina la figura della signora Thatcher, morta l'anno scorso, una delle artefici delle trasformazioni economiche del suo paese, che non a caso è uno dei più brillanti in Europa dopo la grande crisi. E qui troviamo alcuni dei suoi discorsi più importanti, alcuni dei quali ci riguardano anche da vicino, perché parlano dell'Europa con la sua posizione molto contraria a ogni forma di accentramento e di centralizzazione intorno alle strutture europee. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato prima di capitalismo, quel modello al quale molti imputano grandi guai, imputano anche la crisi nella quale ci troviamo e alla quale imputano il fatto che renderebbe o costringerebbe tutti a essere imbroglioni per difendere il proprio interesse. Naturalmente questa è una visione, a mio parere, deformata, ma di questo si parlerà anche quando uscirà nelle sale nei prossimi giorni il film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, Scorsese con Leonardo DiCaprio, che è tratto dal libro autobiografico di Jordan Belfort, Il lupo di Wall Street, Rizzoli, 586 pagine, 17 euro, tradotto da Michele Foschini e G.L. Staffilato. Quindi si tratta di una storia vera che qui viene raccontata dal protagonista, un giovane raider che fondò negli anni 90 una società finanziaria di straordinario successo, dovuto anche alle sue capacità di motivazione dei propri collaboratori, fino alla caduta avvenuta nel 98 e poi l'arresto, il processo, la condanna a 4 anni di carcere scontata solo in parte perché Belfort ha fatto 22 mesi di carcere e un risarcimento addirittura di 110,4 milioni di dollari che gli deve alle sue malcapitate vittime. Belfort non si è naturalmente tirato indietro, non si è abbattuto, adesso è tornato a essere un businessman di successo. Se volete invitarlo per una conferenza, sappiate che dovrete dargli 30.000 euro per una conferenza che poi andranno a rimborsare appunto le proprie vittime. E qui nel libro trovate la storia degli eccessi di questo personaggio, conditi di sesso e di droga, che lo condussero al disastro, che, come abbiamo visto, non gli ha tolto l'iniziativa. Insomma, quella di Belfort è una bella prova di avidità che può diventare un'occasione di reato, ma anche un'arte. Infatti il film in America ha avuto tanto successo perché molti fanno il tifo per personaggi alla Belfort. E sentiamo allora questa definizione dell'avidità. Desiderio di avere di più di quello di cui abbiamo davvero bisogno, più soldi, più cose, più potere, è una strana passione. Per quale scopo, infatti, acquistiamo, raccogliamo, accumuliamo? Se non ne avete bisogno, come intendete utilizzarlo? Avere troppe cose può diventare un problema, come l'eccesso di peso, e avere in banca così tanti soldi da non sapere come spenderli vi rovinerà il piacere di lavorare e risparmiare per poi farvi un meritato regalo. E tuttavia, chi decide quando il troppo è troppo? L'avidità non conosce limiti e quando la nostra diventa insaziabile e conduce all'accaparramento, al furto e all'inganno, ci rendiamo conto di esserci smarriti cercando di inseguirla. Questo è che avete ascoltato l'inizio di una delle voci del libro Curarsi con i libri, rimedi letterari per ogni malanno, Sellerio, 642 pagine, 18 euro, tradotto da Roberto Serrai e curato da Fabio Stassi, che ha introdotto alcuni riferimenti italiani a questo libro ed è il libro che Ermanno Paccagnini citò sul finire dell'anno scorso. Questo libro distilla una passione delle autrici che si è fatto un vero e proprio lavoro, infatti le due hanno fondato a Londra una scuola di biblioterapia e quindi questo è un libro a modo suo di medicina sia per il corpo che per il cuore. Insomma, ogni volta che sentirete bisogno di tirarvi su, leggete questo libro e leggete soprattutto i libri che esso vi consiglia. L'esito delle cure non è affatto scontato, spiegano le autrici. Alcuni libri porteranno una completa guarigione, scrivono, altri invece vi porteranno semplicemente conforto, dimostrandovi che non siete soli, ma tutti, aggiungono, alla fine offriranno un temporaneo sollievo dai sintomi grazie al potere di distrarre e trasportare della letteratura. Per esempio, per l'avidità, la cura che le due scrittrici consigliano sono i libri La perla di John Steinbeck, Il colore di Rose Tremaine e Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga. E ci sono anche le liste in questo libro, ci sono infatti le liste dei 10 migliori romanzi, 10 migliori romanzi per adolescenti da leggere tra superiori università per superare una crisi d'astinenza, perché ha più di 100 anni, per i cinquantenni, per sembrare colti, eccetera eccetera eccetera. E poi c'è un elenco dei disturbi della letteratura, vi cito alcune voci: acquisto di libri compulsivo, bambini che richiedono attenzione troppa, esaurire la propria biblioteca a forza di prestare libri, cura etichettarli, iniziare, paura di lasciare un libro a metà, rifiuto di lasciare un libro a metà, tendenza A. Insomma, un vero divertimento e un libro da tenere a portata di mano quando abbiamo un po' di mal di testa. Il libro, oltre che una cura, può diventare una mania se non un'ossessione, e ci presenta la passione dei libri, spinta fino al parossismo, uno scrittore francese, Charles Nodier, che ebbe grande successo nel suo periodo, fu contemporaneo di Balzac, contemporaneo amico di Balzac, e scrisse due novelle ambientate proprio nel mondo dei bibliofili. Lui stesso era un grandissimo, famosissimo bibliofilo. Le novelle si intitolano Il bibliomane, l'amante dei libri, sono pubblicate dalla Vita Felice Felice, 132 pagine, 9,50 euro, con il testo a fronte tradotto da Pino Di Branco. Troviamo qui una passeggiata, potremmo dire un pellegrinaggio per Parigi, sui luoghi sacri e bibliofili, alcuni dei quali esistono ancora, che si rivelerà fatale al protagonista, e poi un'accorata evocazione dei buchinisti, intesi sia come coloro che hanno la passione di trovare libri usati, sia come coloro che li vendono. Una professione, nell'un caso e nell'altro, condannata secondo Nadie dal progresso che avanza, e siamo appena nel 1841. E il progresso minaccia l'arte speculare a quella del leggere, cioè l'arte di scrivere, in particolare l'arte di scrivere le lettere. Di questo ci parla un giornalista inglese, Simon Garfield, con L'arte perduta di scrivere le lettere e come ritrovarle, pubblicato da Ponte alle Grazie, 462 pagine, 16,80 euro, tradotto da Roberta Zuppet, Francesco Zago e Stefano Valenti. Questa è un'autentica storia della corrispondenza, con molte illustrazioni, anche per spiegare il potere delle lettere, il potere, scrive l'autore, di donarci una vita più grande, perché le lettere rivelano la motivazione, approfondiscono la comprensione, sono elementi probatori, cambiano l'esistenza umana e plasmano la storia. E oggi a questa domanda così risponde. Risponde l'autore, che dice di scrivere questo libro da un mondo senza lettere, e quindi questo aggiunge un libro su ciò che abbiamo perduto, sostituendo le lettere con l'email, l'ufficio postale, la busta, la penna, un processo cerebrale più lento, l'uso di tutta la mano e non solo dei polpastrelli. Si parte dalle tavolette di Vindolanda, ritrovate negli anni 70 in Gran Bretagna, considerate le prime scritte in Inghilterra con inchiostro di soldati romani, e poi naturalmente il periodo classico con le epistole romane di Cicerone, di Seneca, di Plinio, di cui abbiamo qui vari estratti, e poi anche troviamo le istruzioni, come scrivere una lettera perfetta divisa in tre parti. Alla fine di ogni capitolo una lettera esemplare, fino alla posta elettronica, con tutti i problemi che apre, anche alla luce dell'arrivo delle nuove generazioni, che ormai non conoscono più neanche le email. E qui arriva la domanda con cui si chiude il libro. Se le email fossero un'effimera distrazione dal fatto che non vogliamo più comunicare l'un con l'altro nel modo in cui comunicavano i nostri genitori o nel modo in cui abbiamo comunicato per 2000 anni? E se scoprissimo, conclude l'autore, che il sostituto standard della corrispondenza cartacea altro non è che un temporaneo e illusorio ponte verso il non scrivere affatto? Domanda alla quale risponderemo ciascuno di noi nei prossimi anni. Il 15 gennaio ricorre il centenario della nascita di uno dei personaggi più luminosi del Novecento, Etty Hillesum, la ragazza ebrea olandese che volle seguire il destino del suo popolo, che avrebbe potuto probabilmente evitare, si fece deportare nel lager di Auschwitz, dove morì poco meno che trentenne. La Hillesum era una ragazza colta, brillante, vivace, autrice di un diario che abbiamo anche ricordato in questa trasmissione, pubblicato da Delphi, dal quale emerge l'attaccamento al proprio popolo, alla propria religione, che le dà la forza di sopportare l'orrore. E adesso arrivano due libri su di lei, e due libri di due frati cattolici. Il primo è un domenicano canadese e si intitola Etty Hillesum, testimone di Dio nell'abisso del male, è pubblicato dalle Paoline, 220 pagine, 15,50 euro, tradotto da Giuseppe Gabuti, l'autore Hibberio. È un libro che ripercorre la vita di Etty, ma anche ripercorre la sua fede in Dio, scrive l'autore, una fede che ha dato un senso ai suoi giorni e alle sue notti, che risulta fondamentale nella sua esperienza della guerra dell'Olanda degli anni 40. E così padre Berio sintetizza la posizione di Hillesum. Etty Hillesum osserva che, se la vita è diventata quella che è, non è un affare che riguarda Dio, ma noi. Noi abbiamo ricevuto in sorte tutte le possibilità di accedere a tutti i paradisi, ma non abbiamo ancora imparato a sfruttarle. Per Etty, l'uomo ha un dovere nei confronti della vita. Tutte le responsabilità gli sono messe nelle sue mani e perciò non può biasimare Dio o il destino per la prova che si abbatte su di lui. Ha perciò l'obbligo di affrontare degnamente la prova se non vuole perdere il senso stesso del suo valore. Ciò che importa per Etty non è semplicemente sopravvivere, ma vivere assumendo in pieno le responsabilità legate alla vita di una persona. È sorprendente constatare con quale distacco Etty vada incontro al destino che l'attende, lucida e consenziente, senza disfattismo o rassegnazione. È veramente con il coraggio dell'amore che porta a credere nell'altro, che accoglie tutto ciò che succede intorno a lei. L'altro monaco è un benedettino, Michael Davide Semeraro. Il libro si intitola Et illesum, umanità radicata in Dio, sempre dalle Paoline pubblicato, 140 pagine, 13,50 euro. Come nota il filosofo Giovanni Reale nella prefazione a questo libro, esso è interessante in particolare per il tema che affronta frate Michael Davide, ossia la risposta alla domanda che molti si pongono e che molti si sono posti, anzi che per molti è una certezza, secondo la quale l'Olocausto sarebbe la prova dell'inesistenza di Dio. E Reale osserva, citando il libro, che Et illesum invece ha interpretato l'Olocausto come uno dei momenti in cui il male si manifesta e continuerà a manifestarsi nella storia degli uomini. Inoltre ha precisato, aggiunge Reale, che per quanto grande nessun male elimina totalmente il bene e non può dominare per intero su di esso. Fratel Michael Davide, l'autore di questo libro, a questo proposito precisa assai bene: in questo illesum è maestra di lucidità totale, capacità di dare un nome preciso a quello che di negativo può verificarsi, senza dimenticare che, proprio mentre qualcosa di terribilmente negativo sta accadendo, continua a crescere il bene che è da sempre e che è futuro, mentre il male non ha futuro. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto di Caterina Chinnici, che è la figlia di Rocco, il magistrato ucciso, magistrato a sua volta anche l'autrice, che è stata anche assessore della giunta regionale siciliana guidata da Lombardo. Il libro si intitola È così lieve il tuo bacio sulla fronte, Mondadori, 130 pagine, 16,50 euro, un libro che rievoca il clima familiare e prima del tragico attentato del 29 luglio 83 nel quale morì il padre, e naturalmente parla poi del difficile adattamento vissuto con grande riservatezza che ora la figlia decide di rompere per far risaltare appunto la figura del padre. E proprio Chinnici ritroviamo nel libro di una nota scrittrice italiana, Rosetta Loi, che ripercorre la storia drammatica dell'Italia della fine del Novecento. Il libro si intitola Gli anni fra cane e lupo, 1969-1994, il racconto dell'Italia ferita a morte, pubblicata da Chiare Lettere, 292 pagine, 13,90 euro. Anni scanditi da attentati, omicidi, colpi di scena giudiziari che hanno insanguinato quel periodo e cambiato anche il corso della storia italiana. E infine vi segnalo il romanzo di un autore molto popolare, il catalano Ildefonso Falcones, questo si intitola La regina scalza, pubblicato da Longanesi, 698 pagine, 19,90 euro, tradotto da Roberta Bovai e Silvia Sichel. Questa è la terza prova dell'autore della Cattedrale del Mare e La mano di Fatima, che hanno avuto grosso successo in tutto il mondo. Questo romanzo è ambientato nella Siviglia di metà Settecento e in mezzo alle persecuzioni contro i gitani. E a questo punto... Il confettino. Concludiamo con una nota scrittrice italiana, Viviane Lamarque, che ha scritto Storielle al contrario, illustrate da Anna Laura Cantone, pubblicata dai Naudi Ragazzi, 146 pagine, 14,90 euro. Qua troviamo delle storielline divertenti in un mondo rovesciato, dove i divani si sdraiano sui bambini, gli schermi cinematografici guardano curiosissimi il pubblico e dove capita anche di leggere parole scritte al contrario. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.